Effetto Mondo. Ed eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao Giulia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ti sentiamo molto bene, anche se oggi sei in collegamento telefonico. Allora, da dove cominciamo? Guarda, ho sentito prima Daniele Biacchessi che presentava le primarie, interessante perché ci spiega che è vero, oggi è il Big Tuesday, Super Tuesday, chiamiamolo sì, come vogliamo, però poi si va avanti perché ne mancano ancora tanti di stati. E però la notizia comunque di ieri è che alla vigilia di questo Super Tuesday non solo Buttigieg e Amy Klobuchar si sono ritirati dalla corsa alle primarie per i democratici, ma hanno anche molto chiaramente detto, e naturalmente la notizia è su tutti i giornali americani, che sostengono Joe Biden. Quindi diciamo a questo punto la battaglia sembra proprio, così la presentano, ripeto, un po' tutti gli analisti, Joe Biden, Bernie Sanders, ma se magari sentiamo la mia cara Amy, che spero magari che... La tua candidata preferita. Sì, esatto. Well, how great is it to be here in Dallas, Texas? C'è dell'esaltazione nonostante la sconfitta? Sì, guarda, io continuo a stupirmi, sono tanti anni ormai, io ne ho più di 50 e ne avevo 16 quando sono andata negli Stati Uniti la prima volta, ed è da allora che mi stupisco favorevolmente di quanta passione ci sia ancora per la politica dei comizi, per il, poi sappiamo che è tutto, non esistono finanziamenti pubblici alla politica negli Stati Uniti, quindi, e questo è il caso soprattutto, e lo sottolineano tutti oggi, di Bernie Sanders, che ha una quantità di finanziamenti complessivamente enorme, però poi se vai a vedere sono piccole donazioni, ma anche sì, di pochi dollari, quindi la sua forza, diciamo, e tutti pensano che probabilmente uscirà vincitore da questo Super Tuesday, che però non chiude i giochi, la sua forza è proprio appunto di avere così tanti sostenitori tra le persone, diciamo, normali, non, anche perché lui di questo ha fatto il pilastro della sua campagna politica, non le big corporations ma gli americani comuni. C'è un ascoltatore che chiede, ma non so se siamo in grado di dare una risposta, non io sicuramente, Giulia, chi teme di più Trump fra Biden e Sanders? Io credo Sanders, tant'è che lui Biden lo considererebbe, penso, l'avversario ideale, anche perché secondo la maggior parte dei commentatori, lo scrive oggi il New York Times, Biden non ha avuto grandi vantaggi da tutta la questione del tentativo di impeachment di Trump. Molto interessante sul Washington Post, invece noi non ne abbiamo parlato, c'è un convitato di pietra in tutto questo, che è Barack Obama. Sì. Barack Obama ha detto fin dall'inizio che non sarebbe sceso in campo direttamente fino alla fine delle primarie, per non in qualche modo falsarle. Ora, Joe Biden, sappiamo, è stato il suo vicepresidente, quindi per ora Barack Obama sta zitto, però appunto il Washington Post dice magari alla fine del Big Tuesday dirà qualcosa, sia che Joe Biden appaia nettamente svantaggiato o magari appaia già palesemente favorito, e vedremo se questo sposterà dei voti. Insomma, Barack Obama è comunque... Insomma, è il peso fortissimo, esatto, dei democratici, assolutamente, certo. Altre notizie americane? Beh, o vogliamo saltare a Israele, Giulia? Anche un po' di coronavirus, perché adesso c'è il tema di dove far fare questi tamponi. Il Center for Diseases Control and Prevention, il CDC, li metterà a disposizione, ma non ci sono abbastanza, ne vogliono fare 1 milione, questo scrive il New York Times, ma non ci sono abbastanza laboratori certificati per farli. Resta il tema dei costi, ne abbiamo parlato tanto anche ieri, ho continuato a studiare questi numeri, ho scoperto che dopo gli Stati Uniti il paese più caro dove sottoporsi a cure mediche, diciamo, non salvavita, è la Svizzera, e mi è venuto in mente che, guarda caso, anche in Svizzera, dalla Svizzera abbiamo pochissimi dati, quindi anche lì si ripropone, secondo me, il tema. C'era un editoriale oggi su un quotidiano svizzero, ma non abbiamo casi perché non abbiamo fatto test, o non abbiamo casi perché siamo magicamente immuni? È la solita domanda che aleggia in questi giorni. Sì, esatto. Sì. Allora, dicevo, non so se è ancora notizie americane oppure se vogliamo andare a Israele, dove le notizie non mancano, anche sì, perché l'ultimo, diciamo, credo che abbiano finito proprio di, come si dice, di scrutinare tutti i voti, e Netanyahu è lì per avere la maggioranza dei seggi, però forse non ce l'ha. Sì. Il tema, naturalmente, quello che colpisce molto, perché anche in Israele c'è un'emergenza coronavirus, è il dato sull'affluenza, questo lo sottolineano tutti, superiore al 70%, persone che sono andate a votare con le mascherine, ci sono le foto su Arez, su Yedot Aronot, mentre su Jerusalem Post c'è una grande foto di Netanyahu che vota insieme alla moglie, questa signora bionda, sempre molto, insomma, che è sempre molto devota, lo si vede anche dal linguaggio del corpo al marito. Netanyahu si sente un trionfatore, forse possiamo sentire un suo piccolo, un breve audio che abbiamo preso dal discorso in cui, benché ancora non ci fossero e non ci sono tuttora i risultati definitivi, già diceva: questa è la più grande vittoria di tutte le tre ultime elezioni anticipate degli ultimi 13 mesi. In effetti è così. Allora, non so se poi se vogliamo sentire la voce di Netanyahu. Sentiamo. Toda rabba lachem, chavrei e chavrot ha-Likud ha-Yekarim. Che dice? Naturalmente anche lui si è presentato di fronte ai... Tra l'altro questa è una cosa che in Italia succede molto raramente, anche quando c'è una grande vittoria è difficile, sì, no, vedere questi comizi così post risultati così partecipati, ma a parte questo, insomma, dice per il Likud, cioè il suo partito, per me questa è una grande vittoria. Naturalmente tutti i quotidiani si concentrano sul fatto che è vero, ha una maggioranza ma non necessaria per governare da solo, si ripropone il tema delle alleanze e soprattutto, siccome tra meno di 3 settimane ci sarà un voto di nuovo in un processo a Netanyahu per corruzione, chi avrà il coraggio eventualmente di appoggiarlo? Anche perché Netanyahu vuole usare questo tempo per far passare una legge che scongiuri il pericolo che un primo ministro sotto inchiesta non possa fare il primo ministro, quindi è un po' una scommessa per chi si dovesse alleare con lui, vedremo insomma nelle prossime ore. Giulia, l'attivismo turco di queste ore ci porta, come tu ci insegni, a andare a vedere sui giornali tedeschi come sì, viene giudicata questa situazione. E lì, cioè, ci sono alcuni giornali tedeschi come la Süddeutsche Zeitung o Tagesspiegel. Tagesspiegel si chiede, siamo di nuovo al 2015 e sentivo prima l'analista dell'ISPI che diceva qui sembra il gioco dell'oca, torniamo sempre all'inizio perché l'Europa non riesce ad avere un ruolo politico. La Süddeutsche Zeitung titola sulle dichiarazioni di Merkel che ha definito, di Angela Merkel che ha definito Erdogan, il comportamento di Erdogan inaccettabile, e però l'editoriale dice va bene, continuiamo a invocare l'Europa, però ricordiamocelo sempre, l'Europa non ha un esercito, l'Europa non ha un ministero della difesa, di fatto non ha un ministro degli esteri, quindi come pensiamo eventualmente di presentarci con un ruolo politico è un grande tema irrisolto. Mi sono perso una notizia tra le segnalazioni che ci hai fatto, che c'è un ministro inglese che potrebbe lasciare per una questione di bullismo, però abbiamo 4 secondi. Sì, è Pavi Patel, che è ministro dell'interno, appunto accusata di aver bullizzato alcuni suoi colleghi e probabilmente insomma alla fine darà le dimissioni. Ultimissima cosa, 3 secondi, perché hai toccato anche questo tema molto interessante. Sui giornali tedeschi si sottolinea il fatto che anche la virologia non è una scienza esatta e quindi che purtroppo noi siamo qui a aspettare un oracolo da un virologo e poi non per cattiva fede né per assoluto protagonismo, ma sarà difficile avere una parola certa, ecco. Ci mancava questa. Grazie Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Noi ci risentiamo domani con Effetto Giorno, naturalmente. Andrea Roccabella in regia, oggi Jacopo De Franchi in redazione, come sempre. Da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo tra poco alle 14.